Venerdì disgraziato. Il pendolo dell'orologio nella stanza dei bambini oscillava avanti e indietro come una vecchia signora che tentenna la testa. Poi l'orologio cessò di fare tic-tac e cominciò a ronzare e a brontolare piano e poi più forte come se soffrisse. E mentre ronzava si scosse con tale violenza che l'intero gabinetto tremò. Il barattolo pieno di marmellata d'arancia fece un salto e si ruppe in mille pezzi. La spazzola dei capelli di Jane, lasciata lì dalla sera prima, danzò sulle sue setole. Il vaso di capodimonte che la prozia Carolina aveva offerto alla signora Banks come dono di battesimo ruzzolò da un lato, in modo che i tre bambini dipinti sul vaso che guidavano i cavalli rimasero con le gambe per aria. E quando finalmente sembrava che l'orologio dovesse scoppiare, cominciò a battere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All'ultimo colpo Jane si svegliò. Il sole entrava da una fenditura delle tendine e ricadeva in strisce dorate sulla trapunta. Jane si tirò su e guardò per la stanza. Nessun rumore dal letto di Michael. I gemelli nelle loro culle si succhiavano i pollici e respiravano profondamente. «Sono l'unica sveglia», ella disse, sentendosi molto soddisfatta. «Tutti dormono sulla terra, eccetto me. Posso rimanermene stesa qui sola e pensare, pensare». Avvicinò le ginocchia al mento e si rannicchiò nel letto come in un nido. «Adesso sono un uccello», disse a se stessa. Ho fatto proprio ora 7 belle uova bianche e ci sto sopra con le mie ali per covarle. Co, co, co, co, co, co, co. Imitò con la gola il rumore della chioccia. E fra un po' di tempo, diciamo una mezz'ora, ci sarà un pigolio, un colpetto e i gusci si apriranno. Allora usciranno all'improvviso 7 piccoli pulcini e vediamo 3 gialli, 2 marrone e 2. Ora di alzarsi! Mary Poppins, comparendo improvvisamente da chissà dove, rovesciò le coperte del letto dalle spalle di Jane. Oh no, no! Protestò lei. Si sentiva molto arrabbiata con Mary Poppins, perché il suo arrivo precipitoso aveva sciupato tutto. Non voglio alzarmi, disse nascondendo la faccia nel cuscino. Oh, davvero? Mary Poppins rispose calma, come se quell'osservazione non la interessasse affatto. Tirò via tutte le coperte. E Jane si trovò sul pavimento. Oh, povera me, mormorò, perché devo sempre alzarmi per prima? Tu sei la maggiore, ecco il perché. Mary Poppins la spinse verso la stanza da bagno. Ma io non voglio essere la maggiore, perché non può essere Michael il maggiore qualche volta? Perché tu sei nata prima, capisci? Sì, ma non l'ho chiesto io, sono stufa di essere nata prima, volevo pensare. Puoi pensare mentre ti lavi i denti? Ma non sono gli stessi pensieri. Oh, su via, nessuno desidera pensare sempre le stesse cose. Io sì. Mary Poppins le lanciò uno sguardo severo. Basta ora, per piacere. Dal tono della sua voce Jane capì che voleva dire esattamente ciò che aveva detto. Mary Poppins si recò in fretta a svegliare Michael. Jane posò lo spazzolino da denti e si sedette sull'orlo della vasca da bagno. «Non è giusto!» brontolò pestando i piedi sul linoleum. «Farmi fare tutte le cose più orribili perché sono la maggiore. Non voglio lavarmi i denti!» Subito fu sorpresa di se stessa. Di solito era molto contenta di essere maggiore di Michael e dei gemelli. Ciò le conferiva un senso di superiorità. Ma oggi? Cosa aveva mai oggi che si sentiva così nervosa e irritabile? Se Michael fosse nato prima, io avrei avuto il tempo di covare le mie uova, mormorò a se stessa, accorgendosi che la giornata era cominciata male. Sfortunatamente, invece di migliorare, peggiorò. A colazione, Mary Poppins scoprì che il riso soffiato bastava solo per tre. Bene, Jane deve mangiare la zuppa d'avena, disse, mettendo i piatti in tavola e arricciando il naso irritata, perché non le piaceva fare la zuppa d'avena. C'erano sempre tanti grumi dentro. Ma perché? Piagnucolò Jane. Io voglio il riso soffiato. Mary Poppins le lanciò uno sguardo di collera. Perché tu sei la maggiore. E rieccola di nuovo l'odiosa parola. Jane tirò calci alla gamba della seggiola sotto la tavola, sperando di graffiare via la vernice, e mangiò la zuppa d'avena più lentamente possibile. La girava e rigirava in bocca, inghiottendo bocconi piccolissimi. Si meritavano che morisse di fame. Se ne sarebbero pentiti. Che giorno è oggi? Domandò Michael allegramente, grattando gli ultimi chicchi di riso soffiato. Venerdì, rispose Mary Poppins. Non scrostare il piatto, per piacere. Oh, allora oggi si va a prendere il tè con la signorina Lark? Se sarete buoni, disse Mary Poppins ambiguamente, come se non ritenesse possibile una cosa simile. Ma Michael era di umore gaio e non ci fece caso. Venerdì, gridò con gioia, battendo il cucchiaio sulla tavola, è il giorno in cui è nata Jane. I bambini nati di venerdì sono pieni di dispiaceri, ecco perché a lei tocca l'avena invece del riso, soggiunse con cattiveria. Jane aggrottò le sopracciglia, gli sferrò un calcio sotto la tavola, ma egli scansò la gamba e rise. Chi di lunedì nasce, di bellezza si pasce, chi di martedì è nato, di grazia è ornato, egli cantò. Anche questo è vero. I gemelli sono pieni di grazie, sono nati di martedì, e io di lunedì, infatti sono bello. Jane ghignò con disprezzo. È vero, egli insistette. Ho sentito la signora Bree che lo diceva. Diceva Ellen che sono bello come un principe. Beh, non è detto che i principi siano tutti belli, replicò Jane. Per di più hai il naso all'insù. Michael la guardò con aria di rimprovero. E di nuovo Jane fu sorpresa di se stessa. In ogni altro momento gli avrebbe dato ragione perché giudicava Michael un bambino molto grazioso, ma ora disse crudelmente: sì. Hai i piedi voltati in fuori, piedi piatti. Michael si slanciò verso di lei. Adesso basta, disse Mary Poppins, guardando furiosamente Jane. E se qualcuno in questa casa è una bellezza, quel qualcuno è. Si interruppe e ammirò con un sorriso soddisfatto la sua immagine riflessa nello specchio. Chi? Domandarono insieme Michael e Jane. Nessuno che si chiami Banks, rispose Mary Poppins. Ecco. Michael cercò lo sguardo di Jane come faceva sempre, quando Mary Poppins usciva con una delle sue curiose osservazioni. Ma benché ella avvertisse lo sguardo, fece finta di non accorgersene. Si voltò dall'altra parte e prese la sua scatola dei colori dall'armadio dei giocattoli. Vuoi giocare con il treno? Domandò Michael cercando di essere gentile. No, non voglio, voglio starmene da sola. Ebbene, cari, come state stamattina? La signora Banks giunse di corsa nella stanza e li baciò in fretta. Era sempre tanto occupata che non aveva mai tempo per camminare. Michael, disse, hai bisogno di nuove pantofole, ti escono fuori le dita dei piedi. Mary Poppins, temo che bisognerà tagliare i riccioli a Giovannino. Barbara, tesoro mio, non ti succhiare il pollice. Jane, corri giù e di' alla signora Brill di non mettere la glassa sulla torta, la voglio liscia. E rieccoli di nuovo a disturbare la sua giornata. Appena cominciava a far qualcosa, la costringevano a smettere per fare qualcos'altro. Oh, mamma, perché sempre io? Perché non mandi Michael? La signora Banks sembrò sorpresa. Ma io credevo ti piacesse andare. Michael dimentica sempre le commissioni e poi tu sei la maggiore. Su, corri. Jane andò giù più piano che poté. Sperava di arrivare tardi con la commissione in modo che la signora Brilla avesse già messo la glassa sulla torta. E lei stessa si sentiva meravigliata della maniera in cui si comportava. Era come se ci fosse un'altra persona dentro di lei, qualcuno con un carattere molto cattivo e una brutta faccia che la metteva di cattivo umore. Fece la commissione alla signora Brill e fu contrariata di constatare che giungeva perfettamente a tempo. Bene, questo mi risparmierà un po' di fatica, rispose la signora Brill. E senti, cara, dovresti fare un salto in giardino a dire a Robertson che non ha pulito i coltelli. Le mie gambe sono malandate e non ne ho un paio di ricambio. Non posso, ho da fare. Fu la volta della signora Brill di mostrarsi sorpresa. Ah, sì, buona, per cortesia, faccio fatica a reggermi in piedi, non parliamo di camminare. Jane sospirò. Perché non la lasciavano in pace? Con un calcio aprì la porta della cucina e scese con flemma in giardino. Robertson Hay dormiva nel viottolo con la testa appoggiata all'innaffiatoio. I suoi capelli lisci si alzavano e ricadevano quando russava. Era una dote speciale di Robertson Hay, di poter dormire ovunque e in qualunque momento. Infatti egli preferiva dormire piuttosto che stare sveglio e di solito Jane e Michael evitavano che egli fosse scoperto. Ma oggi era diverso. Oggi a Jane non importava nulla di quel che potesse succedere a Robertson Hay. Odio tutti, disse dando un colpo secco all'innaffiatoio. Robertson Hay si drizzò, trasalendo. Aiuto! L'assassino! Il fuoco! Gridò, agitando le braccia selvaggiamente. Quindi si stropicciò gli occhi e vide Jane. Ah, sei soltanto tu! Esclamò deluso, come se avesse sperato in qualcosa di più emozionante. Devi andare subito a pulire i coltelli, ella ordinò. Robertson Hay si tirò su lentamente e si scosse. Ah, disse tristamente. C'è sempre qualcosa di nuovo, se non è una e l'altra. Avrei bisogno di riposare, non ho mai un momento di pace. Sì che ce l'hai, rispose Jane crudele. Non hai altro che pace, dormi sempre. Un'espressione di offesa piena di biasimo apparve sul volto di Robertson Hay. E in qualsiasi altro momento quell'espressione avrebbe fatto provare a Jane un senso di vergogna, ma oggi non era per nulla pentita. Dire simili cose, esclamò Robertson Hay corrucciato. E tu poi, che sei la maggiore, da te non me lo sarei proprio aspettato, no, proprio mai. E le lanciò uno sguardo addolorato, dirigendosi a passi lenti e affaticati verso la cucina. Jane si domandò se egli l'avrebbe mai perdonata e come in risposta la creatura cattiva che era dentro di lei disse: Non me ne importa se non mi perdona. Scosse la testa e piano piano ritornò nella sua stanza, strisciando le mani appiccicose lungo il muro bianco, tinto di fresco, proprio perché le avevano detto di non farlo. Mary Poppins stava passando il piumino della polvere sui mobili. Vai a un funerale? Domandò quando Jane apparve. Jane fece il broncio e non rispose. Io conosco qualcuno che va in cerca di guai e chi cerca trova. Non me ne importa. Non me ne importa è morto. Non me ne importa fu impiccato, la schernì Mary Poppins riponendo il piumino. E ora, lanciò a Jane uno sguardo ammonitore, vado a mangiare. Baderai ai due piccoli e se sento una sola parola. Non terminò la frase, ma emise un lungo sbuffo minaccioso e uscì dalla stanza. Giovannino e Barbara corsero da Jane e le presero le mani. Ella si liberò dalla loro stretta e li respinse con mal garbo. Vorrei essere figlia unica, disse amaramente. Perché non scappi? Suggerì Michael. Qualcuno ti potrebbe adottare. Jane alzò la testa e trasalì di sorpresa. Ma sentireste la mia mancanza? No, di certo, egli rispose risolutamente, se tu continuassi a essere sempre di cattivo umore, e poi potrei avere la scatola dei colori. No, non potresti averla, disse lei gelosamente, la porterai con me. E appunto per mostrargli che la scatola dei colori era sua e non di lui, tirò fuori i pennelli e l'album e li sparse sul pavimento. Dipingi l'orologio, disse Michael per venirle in aiuto. No. Allora il vaso di Capodimonte. Jane alzò lo sguardo. I tre ragazzini raffigurati sul vaso stavano correndo su un prato. In qualsiasi altro momento le sarebbe piaciuto dipingerli, ma oggi non voleva essere gentile o servizievole. Non voglio, dipingerò quello che voglio io. E cominciò a fare un quadro di se stessa, sola, sola, intenta a covare le uova. Michael, Barbara e Giovannino stavano seduti sul pavimento a guardare. Jane era così incantata dalle sue uova che quasi dimenticò il cattivo umore. Michael si chinò in avanti. Perché non disegni una gallina proprio qui? Puntò il dito sullo spazio bianco, strisciando il braccio contro Giovannino. Giovannino ruzzolò e cadde di fianco, rovesciando la tazza dell'acqua col piede. L'acqua colorata schizzò e inondò il quadro. Con un grido Jane balzò in piedi. Oh, questo è troppo! Sei un impiastro! Hai rovinato tutto il disegno! E correndo verso Michael, lo spinse così violentemente che anche lui ruzzolò addosso a Giovannino. Un grido di dolore e di paura si levò dai gemelli e sulle loro urla si alzava la voce di Michael che gemeva: Oh, la testa rotta! Che farò? Ho la testa rotta! Non me ne importa, non me ne importa! Gridò Jane. Non mi hai voluto lasciare in pace, hai rovinato il mio disegno. Ti odio, ti odio, ti odio! La porta si spalancò. Mary Poppins contemplò la scena con occhi furiosi. Che cosa ti avevo detto? domandò a Jane con una voce così calma da essere terribile, che se udivo una sola parola e guarda cosa trovo. Passerai un bel pomeriggio dalla signorina Lark. No, non credo proprio, non farai un passo fuori da questa stanza. Oggi, oppure io sono cinese. Non ci voglio andare. Preferisco rimanere qui. Jane si mise a gironzolare con le mani dietro la schiena. Non era per nulla dispiaciuta. Benissimo. La voce di Mary Poppins era dolce, ma nelle sue parole c'era qualcosa di spaventoso. Jane la guardò vestire gli altri per la festa e quando furono pronti, Mary Poppins trasse fuori il suo miglior cappello da un sacchetto di carta scura e se lo pose in testa con un'inclinazione capricciosa ed elegantissima. Mise intorno al collo il suo medaglione d'oro e la sciarpa a scacchi rossi e bianchi che le aveva regalato la signora Banks. A un'estremità della sciarpa era appuntata un'etichetta bianca con due grosse iniziali M.P. Mary Poppins sorrise al suo riflesso nello specchio mentre nascondeva l'etichetta. Quindi prese dall'armadio il suo ombrello con il manico a forma di pappagallo, lo infilò sotto il braccio e avviò i bambini giù per le scale. «Ora avrai il tempo di pensare», osservò in tono ironico e con uno sbuffo rumoroso si chiuse la porta dietro di sé. Jane rimase lungamente con lo sguardo fisso davanti a sé. Cercò di pensare alle sue 7 uova, ma in fondo non la interessavano più. «Cosa staranno facendo ora dalla signorina Lark?» si domandò. «Forse stavano giocando con i cani e l'ascoltavano raccontare che Andrea aveva uno splendido pedigree», mentre Willoughby era per metà cane da caccia e per metà barbone e aveva preso da tutti e due la metà peggiore. Ed ecco che adesso tutti insieme, anche i cani, mangiavano per merenda i biscotti al cioccolato e la torta di noci. Oh, povera me! Il pensiero di tutto quello che perdeva l'agitò furiosamente e quando si rammentò che la colpa era sua si sentì più in collera che mai. «Tic, tac, tic, tac», disse forte l'orologio. «Oh, sta zitto!» gridò rabbiosamente Jane e, raccolta la scatola dei colori, la gettò con forza attraverso la stanza. La scatola andò a sbattere contro il vetro dell'orologio e, rimbalzando, piombò con fracasso sul vaso di capo di monte. «Crack!» Il vaso ruzzolò contro l'orologio. «Oh, che cosa aveva fatto?» Jane chiuse gli occhi, non osando guardare e vedere. «Accidenti, che male!» Una voce chiara e piena di rimprovero risuonò nella stanza. Jane trasalì e aprì gli occhi. «Jane!» ripeté la voce. «Quello era il mio ginocchio!» Ella voltò in fretta la testa. Nella stanza non c'era nessuno. Corse alla porta e l'aprì. Anche lì nessuno. «Qui, sciocchina!» disse ancora la voce. «Quassù!» Alzò gli occhi alla mensola del caminetto e accanto all'orologio giaceva il vaso di capo di monte attraversato da una lunga fenditura e con sua sorpresa Jane vide che uno dei ragazzetti dipinti aveva lasciato cadere le briglie e stava chinato tenendosi il ginocchio con ambedue le mani. Gli altri due si erano voltati e lo guardavano con commiserazione. «Ma», cominciò Jane un po' a se stessa, un po' alla voce sconosciuta, «io non capisco». Il bambino del vaso alzò la testa e le sorrise. «Non capisci? Già, è logico che non capisci. Ho notato che tu e Michael spesso non comprendete le cose più semplici, vero?» Si volse ridendo ai fratelli. «No», disse uno di loro, «neppure come si fa a far star buoni i gemelli. E neanche come si dipingono le uova di uccello. Le aveva fatte tutte storte», disse l'altro. «Cosa sapete dei gemelli e delle uova?» domandò Jane arrossendo. «Santo cielo!» rispose il primo bambino. «Non penserai che vi abbiamo osservati tutto questo tempo senza sapere tutto quanto accade in questa stanza? Naturalmente non possiamo vedere quel che fate nella stanza da letto o nel bagno. Di che colore sono le mattonelle?» «Rosa!» disse Jane. «Le nostre sono blu e bianche. Ti piacerebbe vederle?» Jane esitò. Non sapeva proprio cosa replicare. Era così sbalordita. «Vieni! Guglielmo e Gerardo saranno i tuoi cavalli, se vuoi, e io reggerò la frusta e ti correrò accanto. Io sono Valentino, nel caso tu non lo sappia. Noi siamo un trio, e in più, naturalmente, c'è Cristina». «E dov'è Cristina?» Jane esplorò il vaso, ma vide soltanto il prato verde e in un piccolo bosco di ontani Valentino, Guglielmo e Gerardo. Vieni a vedere, ripeté Valentino in tono persuasivo, porgendole la mano. Perché si dovrebbero divertire solo gli altri? Vieni anche tu con noi, dentro il vaso. Quest'argomento la convinse. Avrebbe dimostrato a Michael e ai gemelli che non erano gli unici che potevano andare a una merenda. Li avrebbe resi gelosi e li avrebbe fatti pentire di averla trattata così male. Benissimo, disse tendendo la mano, verrò. La mano di Valentino le cinse il polso e la tirò verso il vaso, e all'improvviso ella non si trovò più nel chiuso della sua fresca stanza, ma in un vasto prato illuminato dal sole, e invece del vecchio tappeto, un tappeto di tenera erbetta e di margherite si stendeva sotto i suoi piedi. Evviva! Dissero Valentino, Guglielmo e Gerardo danzandole intorno. Si accorse che Valentino zoppicava. Oh! Esclamò Jane, dimenticavo il tuo ginocchio! Egli le sorrise. Oh, non importa, è stata la crepa nel vaso, lo so che tu non avevi intenzione di farmi male. Jane trasse fuori il fazzoletto e glielo legò intorno al ginocchio. Oh, così va meglio, disse lui educatamente, e mise le briglie nelle mani di lei. Guglielmo e Gerardo, scuotendo la testa e nitrendo, cominciarono a correre attraverso il prato, con Jane che faceva tintinnare le redini dietro a loro. Accanto a lei, con un piede agile e un piede zoppicante, correva Valentino e mentre correva cantava: Amor mio dolce amor, per me tu sei come un bel fior, felice io ti appunto sul cuor e t'amo di tenero amor. Le voci di Guglielmo e Gerardo si unirono al coro: T'amo di tenero amor. Jane pensò che questa canzone aveva un'aria piuttosto antiquata, ma tutto ciò che riguardava quei tre ragazzi sembrava antiquato. I loro capelli lunghi, gli strani abiti, il modo cortese di parlare. I cavalli correvano avanti, trascinandosi dietro Jane e conducendola lontano dalla sua stanza. Tirò le redini col cuore ansante e si voltò a guardare le tracce che i loro piedi avevano lasciato sull'erba. Dietro di lei, dall'altra parte del prato, poté vedere il bordo esterno del vaso. Sembrava piccolo e molto distante, e qualcosa dentro di lei l'avvertì che era tempo di tornare indietro. Devo andare ora, disse lasciando cadere le redini tintinnanti. Oh no, no, gridarono i tre circondandola, e qualcosa nel tono delle loro voci la rendeva inquieta. Sentiranno la mia mancanza a casa. Ho paura di dover andare, disse in fretta. Ma è prestissimo, replicò Valentino. Saranno ancora dalla signorina Lark. Andiamo, ti mostrerò la mia scatola dei colori. Jane fu tentata. C'è anche il bianco cinese? Si informò, perché il bianco cinese era proprio il colore che mancava nella sua scatola. Oh sì, in un tubo d'argento, vieni. A malincuore Jane acconsentì a farsi trascinare avanti. Pensava che avrebbe dato soltanto un'occhiata alla scatola dei colori e sarebbe tornata subito indietro. Non avrebbe neppure domandato il permesso di usarla. Ma dov'è la vostra casa? Non c'è nel vaso. Certo che c'è, ma tu non puoi vederla perché è dietro il bosco. Andiamo. Ora essi la trascinavano dietro i rami scuri degli ontani, le foglie morte crepitavano sotto i loro piedi e qua e là un piccione si posava da un ramo all'altro con un forte battito d'ali. Guglielmo indicò a Jane un nido di petti rossi in un groviglio di rami e Gerardo spezzò un tralcio di foglie e gliene cinse la testa. Però, malgrado la loro benevolenza, Jane era intimorita e nervosa e fu molto contenta quando arrivarono alla fine del bosco. E qui, disse Valentino agitando la mano. Dinanzi a lei si innalzava una grande casa coperta di edera. Era più vecchia di tutte le case che avesse mai visto e sembrava che si chinasse minacciosamente verso di lei. Da una parte sui gradini stava accovacciato un leone di pietra, come se aspettasse il momento di spiccare il salto. Jane rabbrividì quando l'ombra della casa la coprì. Non posso trattenermi, ella disse con agitazione. È tardi. Oh, solo 5 minuti, insisté Valentino, trascinandola nell'ingresso. Il rumore dei loro passi echeggiò sordamente sul pavimento di pietra. A parte loro non c'era traccia di anima viva, la casa appariva deserta. Un vento freddo passò rapidamente nel corridoio, fischiando. Cristina! Cristina! Chiamò Valentino e spinse Jane su per le scale. Eccola! Il suo grido echeggiò per tutta la casa e sembrò che ogni muro ripetesse paurosamente: Eccola! Si udì un rumore di passi affrettati e una porta si spalancò. Una fanciulletta, leggermente più alta dei tre e vestita con un abito a fiori di foggia antica, entrò precipitosamente e si slanciò verso Jane. Finalmente, finalmente! Gridò in tono di trionfo. I ragazzi ti hanno attesa per tanto tempo, ma non sono riusciti a prenderti prima d'ora. Eri sempre così felice. Prendermi? Disse Jane. Non capisco. Cominciava a sentirsi spaventata e a desiderare di non essere mai entrata con Valentino nel vaso. Il bisnonno ti spiegherà. Disse Cristina con una strana risata. Trascinò Jane sul pianerottolo attraverso una porta. Ehi, ehi, ehi, cos'è questo? Domandò una voce tremula e roca. Jane spalancò gli occhi e si rifugiò contro Cristina, perché in fondo alla stanza, su un seggiolone accanto al fuoco, stava una figura che la riempiva di terrore. La luce del fuoco oscillava su un uomo vecchissimo, così vecchio che sembrava un'ombra più che un essere umano. Dalla sua bocca sottile pendeva una sottile barba grigia e benché egli avesse in testa uno zucchetto, Jane poté accorgersi che era calvo come un uovo. Indossava una palandrana di foggia antica, di seta sbiadita e un paio di pantofole ricamate. Pendeva dai suoi piedi magri. Allora? Disse la tenebrosa figura togliendosi dalla bocca una lunga pipa ricurva. Jane è arrivata finalmente? Si alzò e venne verso di lei sorridendo in modo spaventoso, con gli occhi fiammeggianti di un vivo fuoco d'acciaio. Spero che tu abbia fatto buon viaggio, mia cara, borbottò, e attirando a sé Jane con una mano ossuta le baciò la guancia. Al contatto della sua barba grigia, Jane fece un salto indietro con un grido. Egli rise la sua roca terrificante risata. È venuta attraverso il bosco di Ontani con i ragazzi, bisnonno, disse Cristina. Ah, come l'hanno presa? Era seccata di essere la maggiore, così ha gettato la scatola dei colori contro il vaso e ha colpito il ginocchio di Valentino. Ah, ecco, fischiò la vecchia voce orribile. È stata la rabbia allora. Bene, bene, rise debolmente. Ora sarai la minore, mia cara, la mia bisnipotina minore. Ma qui non ci si può arrabbiare, io non lo permetto. Oh, cara, no. Bene, vieni qui e siedi accanto al fuoco. Vuoi prendere il tè o lo sciroppo di ciliegie? No, no, proruppe Jane. Temo che ci sia stato uno sbaglio. Io devo andare a casa adesso. Abito al numero 17 del viale dei ciliegi. Ci abitavi, vuoi dire? Corresse Valentino trionfante. Ora abiti qui. Ma non capisci? Disse Jane disperatamente: Non voglio abitare qui, voglio andare a casa. Sciocchezze, borbottò il bisnonno. Il numero 17 è un posto orribile, meschino, soffocante e moderno. E inoltre non sei felice. Io so cosa vuol dire essere la maggiore. Tutto il lavoro e nessun divertimento. Ma qui, agitò la pipa, qui tu sarai la viziata, la preferita, il tesoro. E non tornerai più indietro. Mai più, fecero eco Guglielmo e Gerardo danzandole intorno. Oh, ma devo, voglio tornare, gridò Jane e le spuntavano le lacrime agli occhi. Il bisnonno sorrise con il suo orribile sorriso sdentato. Pensi che ti lasceremo andare? Domandò mentre i suoi occhi abbaglianti lanciavano fiamme. Hai rotto il vaso, devi sopportarne le conseguenze. Cristina, Valentino, Gerardo e Guglielmo ti vogliono come sorella minore. Io ti voglio come la mia bisnipotina minore. Inoltre tu ci devi qualcosa. Hai ferito il ginocchio di Valentino? Oh, lo ricompenserò. Gli darò la mia scatola dei colori. Ne ha già una? Il mio cerchio. Non gli interessa, è troppo grande. Allora, balbettò Jane, lo sposerò quando sarò grande. Il bisnonno sogghignò. Jane si volse implorante a Valentino che scosse la testa. Temo che sia troppo tardi per questo, egli disse tristemente. Io sono diventato grande da tanto tempo. Allora, perché? Allora, che cosa ho? Io non capisco. Dove sono? gridò Jane, guardandosi intorno con terrore. Lontano da casa, bambina mia, lontano da casa, gracchiò il bisnonno. Sei nel passato, ove Cristina e i ragazzi furono giovani 60 anni fa. Attraverso le lacrime, Jane vide i vecchi occhi di lui che fiammeggiavano crudelmente. Allora, quando posso andare a casa? Mormorò. Non puoi, starai qui. Non c'è altro posto per te. Sei tornata nel passato, ricordati. I gemelli e Michael, persino tuo padre e tua madre, non sono ancora nati. Il numero 17 non è neppure costruito. Non puoi andare a casa. No, no! gridò Jane. Non è vero, non può essere. Il cuore le batteva in petto precipitosamente. Non rivedere più Michael, né i gemelli, né suo padre, sua madre e Mary Poppins. E all'improvviso cominciò a lanciare urla, alzando tanto la voce che essa echeggiò selvaggiamente attraverso i corridoi di pietra. Mary Poppins! Mary Poppins! Mi dispiace! Ero arrabbiata! Oh, Mary Poppins, aiutami! Aiutami! Presto! Tenetevi vicino a lei! Circondatela! Udì il breve comando del bisnonno, sentì i quattro bambini che le si stringevano intorno. Chiuse forte gli occhi. Mary Poppins! Gridò ancora. Mary Poppins! Una mano l'afferrò e la tirò fuori dal cerchio che formavano attorno a lei le braccia di Cristina, Valentino, Guglielmo e Gerardo. La risata chioccia del bisnonno echeggiò attraverso la stanza. La stretta attorno al suo braccio si fece più forte e si sentì trascinata via. Non osò guardare, per paura di quegli occhi spaventosi, ma cercava di liberarsi con tutta la forza dalla mano che la trascinava. La risata risuonò e la mano la condusse avanti, giù per le scale di pietra, attraverso i corridoi che prolungavano l'eco. Non aveva più speranze ora. Dietro di lei le voci di Cristina e dei tre divenivano più deboli, si allontanavano, non avrebbe avuto da loro alcun aiuto. Incespicò disperatamente dietro i passi precipitosi e sentì, benché tenesse gli occhi chiusi, scure ombre sul capo e terra umida sotto i piedi. Cosa le succedeva? Dove? Oh, dove stava andando? Oh, se fosse stata buona! La mano vigorosa la trascinava avanti ed ecco che sentì sulle guance il calore del sole e l'erba ruvida le graffiava le gambe mentre avanzava. All'improvviso un paio di braccia, come tenaglie di ferro, le si chiusero intorno, la sollevarono e la dondolarono in aria. Oh, aiuto, aiuto! gridò, contorcendosi follemente e ribellandosi a quelle braccia. Non avrebbe ceduto senza lotta. Avrebbe tirato calci e tirato calci e tirato calci e... Ti sarò grata se ti ricorderai, le sussurrò all'orecchio una voce ben nota, che questa è la mia sottana migliore e mi deve durare fino all'estate. Jane aprì gli occhi. Un paio di severi occhi azzurri si fissavano nei suoi con fermezza. Le braccia che la serravano così fortemente erano quelle di Mary Poppins, e le gambe a cui tirava calci furiosi erano le gambe di Mary Poppins. Oh, balbettò. Eri tu? Pensavo che non mi avessi udito. Mary Poppins, pensavo che mi avrebbero tenuta là, per sempre. Pensavo. Certa gente, osservò Mary Poppins mettendola giù delicatamente, pensa troppo. Di questo sono sicura. Asciugati la faccia, per piacere. Mise il fazzoletto blu nella mano di Jane e cominciò a preparare la stanza dei bambini per la sera. Jane, asciugatasi la faccia rigata di lacrime nel grosso fazzoletto blu, la guardò. Girò intorno lo sguardo per la stanza ben nota. C'era il tappeto sdrucito e l'armadio dei giocattoli e la poltrona di Mary Poppins. A quella vista si sentì al sicuro, protetta e consolata. Tese l'orecchio, udì i rumori familiari mentre Mary Poppins si affaccendava nel suo lavoro e il suo terrore si dileguò. Oh, che senso di felicità la invase! Non può essere che io sia stata arrabbiata, disse stupita a se stessa. Doveva trattarsi di qualcun altro. Mary Poppins si diresse a un cassetto e ne trasse fuori due camicie da notte pulite per i gemelli. Jane corse da lei. Devo scaldarle, Mary Poppins. Mary Poppins fece uno sbuffo. Oh, non ti disturbare, grazie, sei troppo occupata, sono sicura. Michael mi aiuterà quando verrà su. Jane arrossì. «Per piacere, permettimi di aiutarti!» Ella disse. «Mi piace! Inoltre sono la maggiore!» Mary Poppins si mise le mani sui fianchi e guardò Jane pensosamente per un momento. Esclamò finalmente. «Non bruciarle, allora! Ho già abbastanza buchi da rammendare!» E porse a Jane le camicie da notte. «Ma non può essere successo veramente!» rise Michael un poco più tardi quando udì l'avventura di Jane. «Sei troppo grande per il vaso!» Ella rifletté un attimo. Certo che la storia a raccontarla appariva piuttosto inverosimile. «Effettivamente, non può essere successa davvero!» ella ammise. «Ma al momento sembrava proprio, proprio vero!» «Credo che tu l'abbia semplicemente pensato. Tu pensi sempre le cose!» Si sentiva piuttosto superiore perché lui non pensava assolutamente mai. «Ah, voi due, i vostri pensieri!» disse Mary Poppins, spingendoli da una parte mentre metteva i gemelli nei lettini. «E ora», continuò seccamente quando Giovannino e Barbara furono sotto le coperte, «forse avrò un momento per me». Tolse gli spilloni dal cappello e lo ripose nel sacchetto di cartone. Si tolse anche il medaglione e lo mise con cura in un cassetto. Quindi si sfilò il mantello, lo scrollò e lo appese al gancio dietro la porta. «Ma dov'è la tua sciarpa nuova?» chiese Jane. «L'hai perduta?» «Non può averla perduta», osservò Michael. «Ce l'aveva quando è venuta a casa, l'ho vista io». Mary Poppins si voltò. «Pensate ai vostri affari», disse brusca, «e lasciate che io pensi ai miei». «Volevo soltanto aiutarti», cominciò Jane. «Posso aiutarmi da me, grazie», rispose Mary Poppins, arricciando il naso. Jane si volse a scambiare un'occhiata con Michael. Ma questa volta fu lui che non se ne avvide. Stava fissando il caminetto come se non potesse credere ai suoi occhi. «Che c'è, Michael?» «Dopotutto non l'avevi soltanto pensato», egli mormorò puntando il ditino. Jane guardò sul caminetto. C'era il vaso di Capodimonte attraversato da una crepa, e c'erano le erbe del prato e il bosco di ontani, e c'erano i tre bambini che giocavano ai cavalli, due davanti e uno che correva dietro con la frusta, ma intorno, alla gamba di quello che guidava, era legato un fazzoletto bianco. Estesa sull'erba, come se qualcuno l'avesse lasciata cadere correndo, c'era una sciarpa a scacchi bianchi e rossi, e a un'estremità della sciarpa era attaccata un'etichetta che portava le iniziali MP. «Ecco allora dove l'ha perduta», disse Michael scuotendo saviamente la testa. «Dobbiamo dirle che l'abbiamo trovata?» Jane si guardò attorno. Mary Poppins stava abbottonandosi il grembiule e aveva un'aria offesissima, come se il mondo intero l'avesse insultata. «Meglio di no», ella disse piano. «Credo che lo sappia». Per un momento Jane rimase immobile a fissare il vaso inclinato, il fazzoletto annodato e la sciarpa, e poi, con uno slancio impetuoso, attraversò di corsa la stanza e si precipitò verso la rigida figura bianca. «Oh!» gridò. «Oh, Mary Poppins, non sarò mai più cattiva!» Un pallido sorriso brillò agli angoli della bocca di Mary Poppins mentre lisciava le pieghe del grembiule. «Fu tutto ciò che ella rispose.